Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com. I love Italy. Yeah. I love Italy. Con Andy Mangiarotti su Radio Miami. I love Italy. Yeah. Ringraziamo il nostro amico Marco Renzi per la sigla. Benvenuti a tutti a I Love Italy. Siete su Radio Miami International. Io sono Andrea, vi sto parlando qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese. Resteremo insieme 15 minuti, dove tratteremo di alcuni temi e soprattutto parleremo in italiano. Ovviamente la radio che state ascoltando è WRMI. Double RMI, Radio Miami International, che trasmette da Okeechobee in Florida e in tutto il mondo sulle onde corte e su svariate frequenze. Salutiamo tutti gli amici e tutte le amiche che ci stanno sentendo in questo momento e salutiamo anche chi ci ha inviato dei rapporti di ricezione. Le leggeremo subito in onda, prima però vi ricordo un po' tutti i vari riferimenti per interagire con la trasmissione e per richiedere, se volete anche voi, la cartolina QSL della trasmissione, oppure semplicemente per parlarci un pochino di voi, siamo curiosi. Potete utilizzare la nostra mail, che è la seguente, andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, poi c'è anche il nostro sito www.voiceofitaly.it, nonché anche il sito della radio, della nostra Radio Miami, wrmi.net wrmi.net. È arrivato il momento di leggere il primo rapporto di ricezione, quindi salutiamo un amico che ci ascoltava dagli Stati Uniti e lui ci ha inviato una mail molto molto dettagliata che andiamo immediatamente a leggere. You are listening to the Italian language broadcast of WRMI Radio Miami International. On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world. Ci scrive l'amico Sren Ambat. Ci scrive praticamente una bella mail da Brockenfeld, vicino a Washington, nello stato di Washington, la capitale degli Stati Uniti. E lui appunto ci fa un bel rapporto di ricezione, segnalandoci un po' tutto ciò che io ho trascritto, diciamo così, vocalmente. Lui l'ha trascritto, passatemi il termine, attraverso la mail proprio. Ha fatto una trascrizione delle mie parole. Ebbene, Soren mi dice appunto che ci ha ascoltato alle 20:30 UTC sulla mitica frequenza dei 15.770 kHz. Lui segnala un SIMPO 31323, annuncio lingua inglese, seguito da un programma in italiano. Mi scrive proprio tutto dettagliatamente ciò che io ho pronunciato. E poi appunto mi chiedeva una cartolina QSL, assolutamente l'abbiamo appena inviata, quindi ringraziamo il nostro amico Sray dagli Stati Uniti, ci ascoltava nel circondario di Washington. E ora andiamo avanti con un altro amico che ci ha scritto una bella mail. 亲爱的听众们，你们正在收听 WRMI Radio Miami International 的意大利语节目。 正在播出的是 Andy Mangiarotti， 要练习意大利编辑部，请访问一下网站 voiceofitaly.it， andreamangiarotti.com 或 wrmi.net 请享受 I Love Italy 意大利之声，这是一个在世界各地讲述意大利语的节目。Eccolo qua, ci ha scritto il nostro caro ascoltatore dalla Cina, ci scrive: cara Radio Miami, amo l'Italia, sono un ascoltatore dalla Cina, oggi ho ricevuto il segnale del vostro programma in lingua italiana, per l'esattezza dalle ore 01.15 sino alle ore 01.30 UTC sulla frequenza dei 5850 kHz. Il segnale è molto forte, l'effetto d'ascolto è molto chiaro, vorrei richiedere una cartolina QSL cartacea, noi l'abbiamo appena inviata, e poi c'è il suo rapporto di ricezione che mi dice appunto orario di ricevimento e di ascolto il 3 luglio 2024 alle ore 01.15 sino alle 01.30, frequenza dei 5850 kHz, poi c'è l'apparecchiatura, la mitica radio Texun PL310ET con antenna esterna, luogo di ricezione la città dello Jiangxin, provincia dello Jiangsu, Cina. Ricezione ordinaria, riesco a sentire l'audio, ma c'è un po' di rumore di sottofondo. Per un simpo 43434. Siamo arrivati a luglio, ci scrive il nostro amico Ding Lun, e come in Cina, anche in Italia l'estate è ormai calda, per quanto ne so l'Italia appartiene alla zona climatica mediterranea. Poi continua raccontandoci un po' della, diciamo così, della vicinanza tra le due nazioni, l'Italia e la Cina. E niente, noi abbiamo inviato la cartolina QSL al nostro amico che ci scriveva appunto dalla Cina. Grazie ancora una volta a Ding Lung dalla Cina. Andiamo avanti salutando un altro nostro amico. 다음은 이탈리아어로 된 당신의 텍스트의 번역입니다. 다음은 당신의 스페인어 텍스트의 번역입니다. 친애하는 청취자 여러분, 여러분은 이탈리아어로 된 WRMI, 라디오 마이애미 인터내셔널의 프로그램을 듣고 계십니다. 방송 중 앤디 망기아로티. 이탈리아어 편집부에 연락하려면 다음 웹사이트를 방문하십시오. voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 또는 wrmi.net, I love Italy, 이탈리아의 목소리를 즐기십시오. 이 프로그램은 세계에서 이탈리아어를 말합니다. Questa volta ci scrive un amico dal bellissimo Giappone, questa bella nazione molto molto interessante che spesso e volentieri molti italiani vanno a visitare perché merita veramente, città molto bella, molto tranquilla. Il nostro amico ci scrive da Tokyo, ci ha fatto pervenire un rapporto di ricezione molto molto dettagliato, ci scrive presso la sua abitazione di Tokyo e ci segnala appunto la scheda di emissione, quello che ha ascoltato. Praticamente anche lui ha fatto, si può dire, un report scritto di ciò che io ho pronunciato appunto su Radio Miami, ricordando un po' tutta la trasmissione dello scorso mese, appunto. E stavo appunto leggendo la email che è lunghissima, poi c'è stato anche abbinato un rapporto di ricezione audio dove si ascolta insomma come il nostro amico Sahara, signor Sahara Takuji, ci ha ascoltato. È molto gentile e ci scriveva dal Giappone, e ora vediamo i dettagli dell'ascolto, in particolare come ha ascoltato la nostra emittente. Ha sentito il Radio Miami presso la mia abitazione di Tokyo, ci dice questo amico, per un simpo 35333, nessuna interferenza dei programmi. Ci segnala che fa un po' fatica ad ascoltare la nostra radio, però ha ascoltato con immenso piacere un po' tutta la trasmissione precedente, del mese precedente. Andiamo avanti ora con un'altra bella sorpresa, molto molto gradita direi. Chers auditrices et chers auditeurs, vous écoutez les émissions en langue italienne de WRMI, Radio Miami International. Au micro, Andy Mangiarotti. Pour écrire à la rédaction italienne, visitez les sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com ou le site wrmi.net. Profitez de l'écoute avec I Love Italy, la voix de l'Italie, votre émission qui parle italien dans le monde. Immancabile anche il nostro amico Carlo. Ciao Andrea, ti sto ascoltando anche stasera, il segnale è decisamente meglio per un simpo 45444, segnale appunto, diciamo così, discreto, e anche il nostro amico Carlo mi poi riscrive tramite WhatsApp: ciao Andrea, proprio mentre scrivevo è andato in onda il tuo intervento in cui mi citavi qui in Val di Scalve, segnale dei 15.770 kHz, in certi momenti arriva davvero deciso, altre volte poco e niente, come il mio nella sua zona, che è appunto Costa Volpino. Là arriva nulla o meno che vada in riva al lago, pensate che bello, che probabilmente riflette il segnale d'ovest. Io ci tengo ad inviarti i rapporti, così se Jeff sia tu e Jeff possiate avere un'idea di come si muovono le onde corte. Vedi tu se inviarmi una QSL cartacea a me, visto che una ce l'ho già, va bene anche una elettronica, e quella cartacea ogni tanto, vedi tu. Ma assolutamente Carlo, ho avuto qualche piccolo disguido, diciamo così, per l'estate, ho cambiato un pochino alcune apparecchiature dello studio dell'Oltre Papavese, però ti ho inviato la cartolina QSL, grazie ancora una volta a Carlo che ci scriveva da Costa Volpino, bellissima zona tra le altre cose. E ora andiamo avanti con un altro jingle e poi faremo un breve focus su un argomento, direi, all'ordine del giorno. Queridas oyentes, están escuchando los programas en italiano de WRMI, Radio Miami International. En el aire, Andy Mangiarotti. Para contactar con la redacción italiana, visiten los sitios web voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com o .wrmi.net. Disfruten con I Love Italy, la voz de Italia, el programa que habla italiano en el mundo. Per pochi secondi parliamo di un argomento molto molto interessante, cioè esploriamo il tema che ha segnato profondamente l'Italia attraverso i decenni. Sto parlando della cosiddetta fuga dei cervelli. Quest'oggi gli italiani che emigrano all'estero non è più come all'inizio del Novecento, magari per necessità di lavorativi sicuramente, o per cambiare vita, per ambire a trovare la terra promessa magari in Australia o negli Stati Uniti. Per lo più si usciva dalla prima e anche seconda guerra mondiale, quindi la nostra nazione era alquanto povera. Oggi però abbiamo un'immigrazione particolare, una cosiddetta fuga di cervelli. Perché? Perché i giovani scelgono sempre di più di lasciare l'Italia per recarsi all'estero. Un esempio ovviamente è il mio caro cugino Carlo, che vive ormai da molti anni negli Stati Uniti ed ha anche una doppia cittadinanza. Però c'è questa immigrazione molto particolare. Se prima del Novecento l'Italia era veramente un paese di emigrazione, perché moltissimi emigravano all'estero, soprattutto nel sud Italia, in questi anni milioni di italiani che hanno lasciato la penisola, spesso per andare negli Stati Uniti, in Australia, in cerca di un lavoro e di un futuro migliore. Però questi ragazzi hanno decisamente una preparazione notevole. Quindi vengono ovviamente pagati di più, giustamente, che in Italia, ma all'estero ci troviamo di fronte degli italiani molto molto preparati professionalmente e anche molto molto acculturati, e quindi sono molto richiesti all'estero. Peccato, perché insomma la nostra nazione già abbiamo il problema delle scarse nascite, se poi anche i pochi ragazzi che nascono se ne vanno all'estero, a voi l'ardua sentenza. Io sono arrivato in fondo, vi ringrazio per avermi ascoltato, Dio piacendo ci sentiamo prossimamente. Io ringrazio Jeff White per lo spazio e cediamo la linea a Okeechobee in Florida. Alla prossima, ciao da Andy, ciao, ciao ciao. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? www.andreamangiarotti.com